Aqui a tribo seria distribuída de escolha o sucesso e para o modo ad primo milita botgelis e nevogelito e si tradiveram de guida marco bruto e ruente di xisse caesiunde. Avevamo appena registrato su CD la traccia sonora della morte di Cesare ed eravamo galvanizzati e felici fino alle lacrime quando vi fu il blitz a Palazzo Spada e... Oddio. La mattina delle Idi di marzo del 44 a.C., verso le 11.30, Gaio Giulio Cesare entra nella curia pompeiana e varca la soglia della sala senatoria. Mentre siede sulla scranna, i senatori coinvolti nella congiura lo attorniano come per rendergli omaggio, e Cimbro Tiglio, che si è assunto il compito di prendere l'iniziativa, si avvicina e prende a perorare una sua causa. Ma Cesare lo respinge con gesto imperioso, rinviando la cosa a un altro momento. È allora che tutto ha inizio. All'improvviso Tiglio gli si avventa alle spalle, afferra la sua toga e la strattona in basso, scoprendogli il collo. «Ista quidem vis est!» È il grido sorpreso di Cesare, che denuncia quell'improvviso gesto di violenza. Egli non sa che è il segnale convenuto fra i congiurati. Eravamo nella sala di Pompeo e stavamo riascoltando l'incisione per l'ennesima volta, increduli e intimoriti. D'un tratto sentimmo i rumori di una sparatoria e delle grida. Provenivano dall'ingresso e si avvicinavano rapidamente. Nessuno di noi ebbe il tempo di pensare e di realizzare cosa stesse accadendo. Ci guardammo, incapaci persino di parlare, mentre il fracasso crescente copriva i suoni del massacro di Cesare. Folegari urlò degli ordini, intimandoci di buttarci a terra, e gli agenti che erano nella sala corsero verso l'entrata estraendo le pistole. Mi voltai verso Francesca, e nei suoi occhi ritrovai lo stesso smarrimento e lo stesso terrore che paralizzava me. «Ista quidem vis est!» Publio Servilio Casca afferra di slancio la spada e da dietro ferisce poco sotto la gola Cesare, che adesso urla di paura. «Celestissime Casca, quid facis?» «Maledetto Casca, cosa fai?» Ma evidentemente l'emozione tradisce Casca, poiché il colpo è debole e superficiale. Infatti Cesare riesce ad afferrare il braccio del feritore e ad affondarvi il suo stilo, dopodiché tenta di divincolarsi balzando in avanti. E allora Casca implora suo fratello di aiutarlo, ma in greco. «Adelfè, boetei!» Quell'appello, e certo ancor più la vista del primo sangue, vince fulmineamente ogni soggezione. In un secondo Cesare si trova circondato da una ventina di spade e pugnali puntati al petto e alla gola. Le lame, una dopo l'altra, calano su di lui e lo trafiggono da ogni parte. Le urla del dittatore sono indicibili. Cesare si volta, si rivolta, si divincola, scarta di qua e di là alla disperata ricerca di uno sguardo d'intesa, di una via di scampo. Ma i senatori estranei alla congiura sono pietrificati dal terrore e assistono impotenti alla scena. Irruppero nella sala facendo fuoco e in un lampo tutti i nostri agenti caddero a terra. Follegari riuscì a riparare dietro alla statua di Pompeo, ma era solo contro almeno 20 uomini. Senza pensarci approfittai del diversivo e presi a strisciare verso Francesca. Ormai il Pontifex Maximus striscia a terra tempestato dai colpi, ma più si muove e più il cerchio si chiude su di lui. Rantolante e sanguinante, cercando scampo dalla gragnola di pugnalate fendenti, Cesare si trascina a carponi fino ai piedi della statua di Pompeo. Nello scontro a fuoco, prima il globo e poi la testa della scultura esplosero in mille schegge, finché anche l'ermetico non giacque immobile ai piedi della statua. Finalmente vi fu silenzio, rotto solo dal pianto isterico di alcuni di noi. Allora la banda armata ci puntò contro le armi e ci ordinò di restare zitti e immobili. Intanto un altro uomo entrò nella sala, raggiunse il paleofono e diede istruzioni agli altri su come portarlo fuori. Avevano tutti il volto coperto, ma sentendone la voce riconobbi subito l'uomo che aveva parlato. Era Enrico. «Tquoque, tquoque, tquoque». Così rubarono il paleofono e uscirono di corsa, ma non tutti. Enrico rimase nella sala con una decina di uomini. E fu allora che... Francesca... Oddio. E lì, sotto la statua di Pompeo, Cesare alza gli occhi un'ultima volta ed un tratto vede Marco Bruto, suo figliastro, con la spada sguainata e gli occhi iniettati dell'odio più feroce. È quello e nessun altro il colpo fatale, quello il vero istante della sua morte. e da ultimo, con un gesto di sublime dignità, Cesare si riconosce finito, si accascia stremato sul piedistallo e si copre la testa con la toga, ma non prima di aver pronunciato, in greco, un'ultima ambigua frase. Kaisu Teknon. Ossia, anche tu, figlio mio. Forse la constatazione amara e disperata di un padre tradito, come vorrebbe una lunga tradizione, oppure, chissà, persino una maledizione, la minacciosa profezia di una morte analoga. Ipotesi per nulla assurda, se si considerano da un lato il temperamento di Cesare e dall'altro le inquietanti circostanze della morte di Bruto. Solo 2 anni dopo, infatti, Bruto si suiciderà trapassandosi il petto con quella stessa spada con cui si è macchiato di parricidio. Espressione d'amore tradito o anatema? Non lo sapremo mai. Kaisu Teknon. Quali sono? Chiese un uomo a Enrico, e lui senza esitare puntò il dito prima su Francesca e poi su Matteo, pronunciandone i nomi. Seguirono 2 colpi di arma da fuoco, poi se ne andarono e... erano morti. Francesca e Matteo erano morti. Tutto ciò che il Nocipì accettò di dirmi, prima di intimarmi il più assoluto silenzio e di scomparire, fu qualcosa che avevo già intuito da me. Il comando della aveva ucciso le uniche 2 persone del team in grado di costruire un altro paleofono. Un giorno sarà possibile registrare il discorso della montagna con le parole e la voce di Gesù stesso. Questa frase è comunemente attribuita a Thomas Edison. Dio mi perdoni, ma adesso tutto quello che vorrei sarebbe poter ascoltare le parole registrate su questa pietra che porto al collo. Francesca me la regalò la mattina stessa del Blitz, poche ore prima di morire, e sono certo che, forse prevedendo o semplicemente intuendo il pericolo, vi abbia inciso un messaggio. A questo punto temo che recuperare il primo paleofono sia impossibile. Con ogni probabilità è stato trafugato in America, e Dio solo sa per quali scopi abbia intenzione di usarlo la b***a. Eppure non voglio e non posso arrendermi. Ecco, il primo e fondamentale passo è già compiuto. Adesso l'intera vicenda è di dominio pubblico, ammesso che davvero interessi a qualcuno. Potete credere o anche non credere alla mia storia. Le uniche prove che ho sono la registrazione della morte di Cesare, la pietra che porto al collo e il quaderno degli appunti di Francesca. Ovviamente l'esistenza del paleofono non è trapelata neppure dopo il blitz a Palazzo Spada, dunque sarebbe inutile che vi metteste a frugare fra i vecchi giornali. Il Nocipì ha lavorato molto, troppo bene. Finora la stampa non ha saputo nulla e ai parenti di Francesca, di Corvero e di Matteo è stata propinata una versione completamente falsa dei fatti. Certo non ho raccontato loro la verità, non ce n'era motivo, ma immagino che ora questa storia arriverà anche a loro. Quanto alla statua di Pompeo, beh, è ovvio che il globo e la testa sono stati fedelmente ricostruiti nel più assoluto segreto, cosicché nulla è emerso. Riguardo ai miei ex colleghi di Mnemosine, qualcuno ha deciso di lasciarsi l'incubo alle spalle e di provare a dimenticare questa orribile vicenda, chiamandosi fuori da una storia che è già costata diverse vite. Come biasimarli? Ma c'è anche qualcuno che invece è ancora pronto a lottare. No, non sono solo. Eppure non basta. Sono assolutamente certo che con gli appunti di Francesca sia possibile costruire un altro paleofono. Una volta lei stessa mi ha rivelato che nel suo taccuino annotava tutto. E poi c'è la pietra. Ma ho bisogno di esperti, di scienziati che sappiano comprendere quelle istruzioni e dar loro nuova vita. È l'unico modo che ancora ci resta per riscattare tutto questo orrore e dargli un senso. Ed è l'unico modo che ho per sentire ancora una volta la voce di Francesca. Aiutatemi. Un'ultima cosa. Se mai mi ascoltassi, Enrico, tieni bene a mente questo messaggio. Kaisu. Kaisu Teknon. Qui tanto si tangenti flagis con fossu sesto e pari modo ad primo militavo gelis tu sine vocelito e si tra di verum te guidam barco bruto e ruenzi dixisse cae si un tegno. Il Paleofono è un audioracconto di fantasia. L'esplicito riferimento a persone realmente esistite risponde a esigenze narrative e non intende violarne in alcun modo la memoria. Ogni altro riferimento a persone o fatti reali è invece puramente casuale. Ideazione, testi e sonorizzazione di Augusto Fabiano Buzzi. Il Paleofono @gmail.com